O. Montone. Montone. Pecora. Pecora. Gonna. Conna. Cavolo. Cavolo. 练习. Nonno. Nonno. Modo. Modo. Notte. Notte. Otto. Otto. Ora. Ora. Come. Come. Loro. Loro. Solo. Solo. Botte. Botte. Botte. Botte. Colto. Colto. Colto. Colto. Scopo. Scopo. Scopo. Scopo. Fosse. Fosse. Fosse. Fosse. Volto. Volto. Volto. Volto. Dopo torno solo solo. Amo molto il loro dono. Lavoro tutto il giorno. Poi guardo la foto. Oggi vado all'opera. Ho fatto un ottimo lavoro. 谚语. Proverbi. La fine corona l'opera. Non è tutto oro quello che luce.